www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il gallo canta, ma senza Letizia, Kappa e Drago fanno i sabotatori. Allora, l'esperimento è chiaro. Noi raffredderemo la caldaia centrale. Sì. Non so ancora come, ma ci riusciremo. Ok. E poi verificheremo. Mi sembra chiaro. Okay. A posto, sì, sì. Se raffreddandosi la caldaia, Büchner si mette a scrivere come Faletti, allora vuol dire che questa caldaia è senza ombra di dubbi il cervello di Georg Büchner. Se invece Büchner continua a delirare come uno che ha la febbre tifoidea, allora vuol dire che tra Büchner e la fabbrica di polli non c'è nessun collegamento. Bene, tutto è chiaro. Quindi come intendi procedere? Allora, cercando un termostato, giusto, o un interruttore, insomma, qualcosa che mi permetta di spegnere la caldaia. Che è alimentata a... Sembrerebbe... Non so. Gas? No. No. No, Drago, tu non fiutare, che crei una corrente d'aria con quel naso, lo sai. Per favore. Sterco di gallina, però. Ecco, la caldaia è alimentata a sterco di gallina. Non si butta via niente. Già. Büchner, quindi, ha un cervello pieno di sterco di gallina? Drago, per favore, non mancare di rispetto a un grande della letteratura. Georg Büchner, morto a soli 24 anni, autore di capolavori scabri e imperfetti, ma ancora oggi inarrivabili esempi di pre-expressionismo. Sì, vabbè, ma io non faccio, guarda, che non faccio che applicare una proprietà transitiva dietro l'altra. La conclusione è che la testa di Büchner è piena di sterco di gallina. Va bene, Drago, va bene, abbiamo capito. Ora cerchiamo un interruttore. Sì, vabbè, cerchiamo. Dovrebbe esserci un quadro elettrico da qualche parte, no, con il bottone, no, quello 1-0, no? No, esiste sempre il vecchio e infallibile sistema del ponticello. Ma no, di nuovo. Sì, di nuovo. No. Quando non se ne può fare a meno, basta avere un martello. Piano! E poi basta avere un saldatore portatile. Beh, certo, quello c'erano tutti. Sì, ecco, sì. Guarda lì. E poi? Vabbè. Ecco. Sì. E poi basta avere pazienza. Tanta pazienza. Molta pazienza. Abbiate pazienza. La pazienza di avere pazienza ripaga l'impazienza di non avere pazienza. Ma con tanta, tanta pazienza. Pazienza. Ecco fatto. Sono l'allarme. Caldaia spenta. Okay. Ora deve raffreddarsi, aspettiamo un attimo. Pazienza. Come si sentirà però adesso? Sollevato, come vuoi che si senta? Sollevato. Poco per volta si sentirà in piena forma anche lui. La febbre gli scenderà e tornerà a ragionare. Sì, a dire minchia, signor tenente, invece di lineare Fersterlo, un grave danno per la letteratura mondiale. Io non so come, ma stiamo cercando di intervenire all'interno del cervello di uno scrittore del primo 800, rischiando di modificare il corso della letteratura da quel momento in poi. Se Büchner a cervello freddo si mette a scrivere come Faletti, rimanendo però nell'Ottocento, Faletti potrà diventare Büchner nel 2007? E se sì, Alban Berg farà un'opera intitolata Minchia, signor tenente? Zeit dein Talent. fabbrica di polli. Ecco, vedi, l'anatra selvatica malata numero 0 dell'aviaria è stata identificata proprio qui, in Cambogia. Ah, che allegria. Ha trasferito il virus a un'anatra non selvatica in un allevamento clandestino che in realtà però fungeva da paravento per una frangia ribelle di Khmer Rossi, orfani di Pol Pot. Poi l'anatra non selvatica ha gentilmente fatto altrettanto con le sue colleghe galline, che poi sono state mangiate dai cambogiani, che a volte si sono ammalati e altre no. Hai capito? La storia dell'aviaria è molto semplice, Drago. Però non ho capito, prima della malata numero zero, che cosa c'era? No, prima della malata numero zero c'era solo Amoghele. Però attenzione, perché su Amoghele ho grandi novità. Ah, sì. Esiste una canzone che si chiama Amoghele. Una canzone? Sì, una canzone sudafricana cantata da un certo Petisi e che fa più o meno così. Devi ascoltare bene. No, lo dice con una pronuncia un po' diversa, ah. Però la canzone si intitola proprio Amoghele, quindi Amoghele. Non ci sono dubbi. Sì, sì. Amoghele, Drago, gode di un culto che va oltre quello che ci immaginiamo. Il 13° posto, africano, mago, che convince Gesù, poco prima della crocifissione, a scappare nel sud dell'Africa, dove invecchia e si ritira a vita privata bevendo spuma. Ma come? Gesù che beve spuma? Sì. Che c'è di male? Nella bocciofila in Botswana, 2000 anni fa, si beveva spuma come si beve adesso. Vabbè, comunque adesso dobbiamo cercare di capire questo cantante, Petisi, chi è e cosa fa. Certo, Petisi. È sudafricano, quindi dobbiamo anche partire e andare in Sudafrica, o in Botswana, visto che... Anche in Zimbabwe, per quello che ci interessa. Però siamo in Cambogia, scusa, eravamo partiti con l'anatra selvatica malata numero zero della viaria. Vabbè. E adesso siamo... Vabbè, ma facciamo tutta una tirata su un aereo di linea bielorusso, a Phnom Penh, a Gaborone. Gaborone? A Gaborone, la capitale del Botswana, Gaborone. A Amoghele da Gaborone, suona anche bene. Però cosa ci facciamo ancora in Cambogia? Sciopero del personale di bordo. Ma come? Bersani è arrivato fin qui? Bersani è ovunque. Come a Amoghele. Amoghele. Amoghele. La caldaia è ancora calda. Sì, sì, se no sarebbe una freddaia. Vabbè, questa è una freddura. Diciamo pure che è una cazzata. Ma è calda? Sì. Quindi Büchner non ha ancora smesso di delirare. Hai fretta. E fai male. Perché la fretta ne ammazza più del petrolio. Devi stare calmo. Devi stare molto calmo. Hai capito? No? Avete capito? No? Che cosa succederà adesso? L'incredibile avventura di K e Drago all'interno del grande drammaturgo tedesco Georg Büchner continuerà. E che cosa ha da dire Büchner al riguardo? Un altro fine settimana senza fabbrica vi attende, ma ritrovatevi puntuali lunedì alla stessa ora su Radio 3 per i prossimi germanistici allestimenti de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.